Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. La sera di carnevale, con un bicchiere di vino, ingegnere, ricorda? Lei prese in certo qual modo commiato da me. Sì, sì, era qualcosa di simile. Ebbene, oggi tocca a me, signori. Come mi vedete, sono sul punto di dirvi addio. Lascio questa casa. I due cugini rimasero stupefatti. «Non è possibile, lei scherza!» esclamò Castorp, come aveva già esclamato in altra occasione. Era allibito quasi come allora, ma Settembrini ribatté. «Niente affatto! È come dico! D'altronde la notizia non la trova impreparato. Le dichiarai che nel momento in cui la mia speranza di poter ritornare entro un tempo ragionevole nel mondo del lavoro risultasse insostenibile, avrei levato le tende per sistemarmi in un domicilio fisso, qui, nel luogo. Che devo dire? Il momento è arrivato. Non posso guarire, ormai è deciso. Posso vivere ancora, ma soltanto qui. La sentenza è definitiva. Una condanna a vita. Con il suo solito buon umore Berens me l'ha comunicata. E sia. Ne traggo le conseguenze. Ho affittato un alloggio e sto per trasportarvi i miei modesti averi terreni, i ferri del mio mestiere di letterato. Non è neanche lontano da qui, a Dorf. Ci incontreremo ancora, certamente. Non vi perderò di vista, ma come coinquilino ho l'onore di congedarmi. Questa la dichiarazione dei Settembrini la domenica di Pasqua. I cugini se ne erano mostrati straordinariamente commossi. Più a lungo, poi, ripetute volte gli avevano parlato di quella sua decisione. Avevano chiesto come intendeva di continuare privatamente la cura, in che modo avrebbe ripreso e lavorato alla grande impresa dell'enciclopedia, cui si era sobbarcato. A quel panorama di tutti i capolavori letterari, visti sotto l'aspetto della sofferenza e della sua eliminazione, e infine quale sarebbe stato il suo futuro alloggio in casa di un mercante di droghe, come egli lo aveva definito. Il droghiere, rispose, aveva affittato la parte superiore della casa a un sarto per signora Boemo, il quale a sua volta accoglieva subinquilini. Queste conversazioni appartenevano dunque al passato. Il tempo marciava e aveva prodotto ormai parecchi mutamenti. Settembrini non abitava più davvero nel sanatorio internazionale Berghof, ma da Lukacek, il sarto per signora, già da qualche settimana. La sua uscita non era stata una partenza in slitta, ma a piedi, con indosso un tabarro giallo, corto, con un po' di pelliccia sul collo e sulle maniche, e in compagnia di un uomo che con un carretto a mano trasportava il bagaglio letterario e terreno dello scrittore. Lo si era visto allontanarsi agitando il bastone, dopo aver dato sulla soglia un pizzicotto alla guancia di una delle cameriere. L'aprile, come si è detto, era già in gran parte, per tre quarti nell'ombra del passato. Erano nella via principale, fra la casa di cura e l'hotel Belvedere, in discesa verso Davosdorf. La valle era vestita a festa, a colori delicati, chiari e allegri. L'aria era deliziosa. Una sinfonia lieta di profumi emanati dai fiori di prato empiva l'atmosfera pura, asciutta, schiarita dal sole. Riconobbero Ludovico Settembrini al fianco di un forestiero, ma parve che egli a sua volta non li riconoscesse o non desiderasse un incontro, poiché distolse rapidamente lo sguardo e, gesticolando, si immerse nella conversazione col suo compagno, cercando persino di allungare il passo. Ma quando i cugini alla sua destra salutarono sorridendo con un inchino, egli si mostrò sorpreso e, con esagerato piacere, «Oh, perbacco! Caspiterina!» Ma di nuovo esitando, tentò di farli passare avanti. Essi però non compresero, ossia non se ne accorsero, perché a loro la mossa non poteva parere ragionevole. Sinceramente lieti, invece di incontrarlo dopo tanto tempo, si fermarono accanto a lui e gli strinsero la mano chiedendo come stava e guardando in riguardosa attesa il suo compagno. Così lo costrinsero a fare ciò che evidentemente avrebbe preferito non fare, mentre a loro sembrava la cosa più naturale e prevedibile, a presentarli, cioè, allo sconosciuto. Camminando e quasi senza fermarsi, li presentò dunque, con gesti cortesi e frasi allegre, facendo sì che si stringessero la mano davanti a lui. Si venne a sapere che il forestiero, il quale poteva avere la stessa età di Settembrini, era un suo coinquilino in subaffitto presso Lukacek, il sarto per signora. E se i giovani avevano capito bene, si chiamava Nafta. Era un omino scarno, raso, e di una bruttezza spiccata, addirittura corrosiva, tanto che i cugini ne rimasero sbalorditi. In lui tutto era affilato. Il naso aquilino che dominava il viso, le labbra strette, le spesse lenti degli occhiali dall'armatura leggera che portava sugli occhi grigio chiaro, e persino il silenzio che osservava, donde si poteva arguire che il suo discorso doveva essere acuto e logico. Era regolarmente a capo scoperto e in giacca, e vestiva con garbo. Il suo abito di flanella turchina a righe bianche era di buon taglio, moderatamente alla moda, come notò subito l'occhiata indagatrice dei due giovani uomini di mondo, la persona dei quali fu oggetto di un'occhiata simile, ma più rapida e penetrante, da parte del piccolo Nafta. Camminavano in fila irregolare, tutti e quattro possibilmente affiancati, ma nell'incontro con altri passanti, Settembrini, che formava l'ala destra, doveva scendere sulla carreggiata o la fronte si spezzava per qualche istante quando l'uno o l'altro rimaneva indietro o rientrava, fosse Nafta a sinistra o Castorp che stava fra l'umanista e il cugino Joachim. Nafta faceva brevi risate, con la voce in sordina, velata di raffreddore, che rammentava il suono di un piatto incrinato percosso da una nocca. Indicando con la testa l'italiano che aveva al fianco, disse, strascicando le parole: «Sentite il volterriano, il razionalista. Loda la natura perché nemmeno nella più fertile occasione ci confonde con mistici vapori e conserva invece la secchezza classica. Come si dice umidità in latino? Humor, esclamò Settembrini al di sopra della spalla sinistra. E l'humor del nostro professore, nel considerare la natura, consiste nel particolare che, come Santa Caterina da Siena, quando vede le primule rosse, pensa alle piaghe di Cristo. Nafta rispose, sarebbe un fatto spiritoso piuttosto che umoristico, ma sarebbe sempre un'immissione di spirito nella natura che ne ha bisogno. La natura, disse Settembrini abbassando la voce, e non più al di sopra della spalla ma quasi giù da essa, non ha punto bisogno del suo spirito. È spirito lei stessa. Non si annoia col suo monismo? Ah, lei riconosce dunque che spezzando il mondo in due principi ostili, scomponendolo in Dio e natura, lo fa per smania di divertimento. È interessante che lei chiami smania di divertimento ciò che intendo quando dico passione e spirito. Pensare che lei, pur usando parole così grosse per necessità così frivole, mi dà talvolta dell'oratore. Lei insiste nel dire che spirito significa frivolezza. Ma esso non ha nessuna colpa se è dualistico per sua natura. Il dualismo, l'antitesi, è il principio movente, appassionato, dialettico, spiritoso. Vedere il mondo scisso in due principi avversi, ecco lo spirito. Ogni monismo è noioso. Solet Aristotele squarre repugnam. Aristotele. Aristotele ha trasposto negli individui la realtà delle idee universali, che è panteismo. Errore! Se lei dà agli individui un carattere sostanziale, se toglie l'essenza delle cose dall'universale e la pensa nel fenomeno singolo, come fecero gli aristotelici Tommaso e Bonaventura, lei stacca il mondo da ogni unione con l'idea suprema. La pone fuori di Dio e Dio diventa trascendente. Questo, signor mio, è medioevo classico. Classico medioevo? Accoppiamento di parole delizioso. Domando scusa, ma io riconosco valido il concetto di classico a tempo e luogo. Cioè dovunque un'idea tocchi il proprio vertice. L'antichità non è sempre stata classica. Vedo che lei nutre un'antipatia contro la libertà delle categorie, contro l'assoluto. Lei non vuole neanche lo spirito assoluto, vuole che lo spirito sia il progresso democratico. Spero che saremo d'accordo nella convinzione che lo spirito, per assoluto che sia, non potrà mai essere il sostenitore della reazione. È però sempre il sostenitore della libertà. Però, libertà è la legge dell'amore del prossimo, non nichilismo e malvagità, della quale lei ha evidentemente paura. Settembrini alzò un braccio sopra la testa e la scaramuccia cessò. Joachim mi fissava stupefatto, ora l'uno ora l'altro, mentre Castorpe con le sopracciglia sollevate guardava per terra. Nafta aveva parlato in tono secco e apodittico, benché fosse stato lui a propugnare la libertà più ampia. Specialmente il modo di controbattere con l'esclamazione «errore» seguita da una smorfia era sgradevole. Thank you. Ora, mentre Nafta taceva, Settembrini prese a spiegare ai cugini i precedenti dell'uomo a loro sconosciuto, venendo così incontro al bisogno di chiarimenti che supponeva avessero dopo il suo battibecco con Nafta. Questi lasciò fare, senza occuparsene. Era professore di lingue classiche nei corsi superiori del Fridericianum, spiegò Settembrini, mettendo pomposamente in rilievo alla maniera italiana la posizione della persona che presentava. Settembrini poi passò a dare a Nafta informazioni sui cugini, donde risultò che doveva avergliene parlato altre volte. Questo, dunque, era il giovane ingegnere delle tre settimane, nel quale il consigliere Behrens aveva scoperto una zona molle, e quello la speranza dell'esercito prussiano, il tenente Zinsen, e parlò della sentimentale ribellione di Joachim, dei suoi progetti di viaggio, aggiungendo che senza dubbio si faceva torto all'ingegnere pensando che non avesse la medesima impazienza di ritornare al suo lavoro. Nafta torse il naso e disse: «I signori possiedono un tutore eloquente. Mi guardo bene dal mettere in dubbio che la sua interpretazione dei loro pensieri e desideri sia esatta. Lavoro, lavoro, ecco. Ora dirà che sono un nemico dell'umanità, un inimicus umane nature, se ho l'ardire di evocare i tempi nei quali questa sua fanfara non avrebbe certo sortito il consueto effetto, i tempi cioè nei quali il contrario del suo ideale godeva una stima incomparabilmente maggiore. Bernardo di Clairvaux, ad esempio, insegnò una graduatoria della perfezione ben diversa da quella che il signor Lodovico non ha neanche sognata. Volete sapere quale? Lo stadio più basso sta nel mulino, il secondo nel campo, il terzo è più lodevole, non stia a sentire, Settembrini, nel letto. Il mulino è il simbolo della vita mondana e l'immagine non è scelta male. Il campo è l'anima dell'uomo mondano sulla quale agisce il predicatore e maestro spirituale. Questo stato ha già una maggiore dignità. Sul letto, invece... «Basta, lo sappiamo!» esclamò Settembrini. «Adesso, signori, vi esporrà lo scopo e l'uso del sofà». Non sapevo, Settembrini, che fosse così pudico. Quando la si vede fare l'occhiolino alle ragazze, dov'è la spregiudicatezza pagana? Il letto, dunque, è il luogo di convivenza di chi ama con chi è amato. E come simbolo la contemplativa segregazione dal mondo e dalle creature per la convivenza con Dio. Andate, andate! Protestò l'italiano quasi piangendo. Gli altri risero. Non vi dovete stupire, questo signore ed io litighiamo spesso, ma sempre in buona amicizia e in base a parecchi punti d'intesa. Osservazione utile e benefica, cavalleresca e umana da parte di Ludovico Settembrini, ma Joachim, che purtroppo era guidato da buone intenzioni e candidamente desiderava continuare la conversazione, intervenne, come premuto e costretto in qualche modo, e quasi contro la sua volontà. Si parlava, per caso, della guerra, mio cugino ed io, quando camminavamo dietro di loro. «Me ne sono accorto», replicò Nafta. Afferrai la parola e mi voltai. «Discutevate di politica, della situazione mondiale». «No, no», rise Castorp. «Come vuole che lo facessimo? Per lui, mio cugino, data la sua professione, sarebbe addirittura sconveniente occuparsi di politica». Settembrini, come già altra volta, dichiarò che era un fatto riprovevole e tosto si rivelò ottimamente informato delle relazioni internazionali e ne diede un giudizio favorevole perché erano avviate in maniera vantaggiosa per la civiltà. In Europa l'atmosfera generale era, disse, tutta pensieri di pace e progetti di disarmo. L'idea democratica stava progredendo. Affermò di possedere informazioni confidenziali intorno ai giovani turchi, i quali stavano appunto terminando i loro preparativi di un'impresa rivoluzionaria. La Turchia, stato nazionale e costituzionale. Quale trionfo dell'umanità! La liberalizzazione dell'Islam, canzonò Nafta. Magnifico! Il fanatismo illuminato! Benissimo! Che poi riguarda lei, aggiunse rivolgendosi a Joachim. Se cade Abdulhamid, il suo influsso sulla Turchia va in fumo e l'Inghilterra assumerà il protettorato. Prendete pure sul serio le aderenze e le informazioni del nostro Settembrini, disse ai cugini, e furono parole piuttosto impertinenti, poiché pareva li considerasse propensi a non prenderlo sul serio. Di cose nazionali rivoluzionarie è un intenditore. Il suo paese è in buoni rapporti col comitato balcanico inglese. Ma che ne sarà, Lodovico, degli accordi di Reval? Se i suoi turchi progressisti avranno fortuna, Edoardo VII non potrà più concedere ai russi l'apertura dei Dardanelli. E se l'Austria, ciò nonostante si risolvesse a una politica attiva nei Balcani... Vada là, con le sue profezie catastrofiche, protestò Settembrini. Nicola è amante della pace. Si devono a lui le conferenze dell'AIA, che restano fatti morali di prim'ordine. Già, dopo la sua piccola disavventura in Oriente, la Russia ha dovuto prendersi un po' di riposo. Vergogna, signor mio! Lei non dovrebbe deridere l'aspirazione dell'umanità al suo perfezionamento sociale. Il popolo che avversa siffatti sforzi si esporrà indubbiamente al bando morale. A che servirebbe la politica se non a offrire reciproche occasioni di compromettersi moralmente? Lei è favorevole al pangermanesimo? Nafta si strinse nelle spalle, che non erano del tutto pari. Oltre a tutta l'altra bruttezza, era anche un po' sbilenco. Gli ripugnava rispondere. Settembrini giudicò. In ogni caso, lei parla da cinico. Nei magnanimi sforzi che la democrazia fa per imporsi sul piano internazionale, non vuole vedere altro che astuzia politica. Pretende forse che vi scorda dell'idealismo? O magari religiosità? Si tratta degli ultimi gracili moti di quel resto di istinto di conservazione del quale dispone ancora un sistema mondiale condannato. La catastrofe dovrebbe e deve avvenire. Verrà ad ogni modo e da tutte le parti. Il signor Settembrini dimentica di aggiungere che l'idillio russoiano è un peggioramento razionaleggiante della dottrina cristiana intorno alle condizioni dell'uomo primitivo, senza stato e senza peccato, alla sua originaria e diretta discendenza da Dio, alla quale dovrebbe ritornare. Lei scherza, questo non è più parlare sul serio. La nostra conversazione si disgrega e proprio al momento giusto. Siamo arrivati, disse Settembrini, indicando col bastone ai due cugini la casetta al cui cancello si erano fermati. Sorgeva presso l'entrata in Dorf, sulla strada dalla quale la separava un breve giardinetto, ed era modesta. Una vite selvatica saliva da radici scoperte intorno agli stipiti della porta di casa e stendeva un braccio curvo aderente al muro verso una finestra del pianterreno, la vetrina di una botteguccia. Il pianterreno, spiegò Settembrini, era occupato dal droghiere. L'abitazione di Nafta era al primo piano, nella sartoria, e lui stesso alloggiava sotto il tetto, dove aveva uno studio molto tranquillo. Con sorprendente e spiccata gentilezza, Nafta espresse la speranza che a quello seguissero altri incontri. «Vengano a trovarci», disse. «Vorrei dire, vengano a trovarmi», se il dottor Settembrini non avesse il diritto di precedenza alla loro amicizia. Vengano quando vogliono, quando sentiranno il desiderio di un breve colloquio. Io apprezzo lo scambio di idee coi giovani e forse non sono del tutto privo di tradizione pedagogica, se il nostro maestro dei 33, indicò Settembrini, vuol riservare ogni disposizione e vocazione pedagogica all'umanesimo borghese, lo si deve contraddire. A presto, dunque. Piero Baldini ha letto La montagna incantata di Thomas Mann. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.